I titoli, il Sole 24 Ore, Spagna, aiuti europei anti-spread, così sul Corriere della Sera invece la questione tasse, pressione fiscale al 55%, scelta uguale per la stampa, tasse, l'Italia prima al mondo, pressione al 55%, e il Messaggero, in Italia il record di tasse. C'è chi sceglie il filone invece, via da meglio, Stato mafia, voglio la verità, è l'apertura di Repubblica, le parole di Napolitano. Paolo, ti hanno tradito, così il Fatto Quotidiano, l'accusa dei PM di Palermo. Questi alcuni dei titoli, ne vedremo altri, così vado subito, senza perdere altro tempo, a leggere qualcosa dai giornali. Stipendi, voglio partire da questo, stipendi. Così voi li commisurate sempre ai vostri stipendi. Per carità, senza qualunquismo. Allora c'è una mobilitazione per gli stipendi dei vertici della RAI, la presidente Tarantola, il direttore generale nuovo Luigi Gubitosi. Gli stipendi. Gubitosi, per esempio, arriva a 650.000 euro per un contratto a tempo indeterminato, nonostante il ruolo da direttore generale della RAI sia a tempo determinato, 650.000 euro. E c'è polemica in Parlamento. Ma come? Abbiamo tentato, vogliamo mettere e abbiamo messo un tetto di 294.000 euro per i manager pubblici, che poi si è visto che non è applicato per il momento. E facciamo entrare in RAI una presidente, in questo caso un direttore generale, che guadagna 650.000 euro? Se lo chiedono molti in Parlamento, ma se lo chiede anche la Corte dei Conti. RAI, i dubbi della Corte dei Conti sullo stipendio di Gubitosi. Questo è il titolo, per esempio, a pagina 19 di Repubblica. O il Fatto Quotidiano, RAI, pieni poteri alla Tarantola, si comincia dai super stipendi. Per la presidente e il direttore generale messi insieme si arriva a 1.100.000 euro l'anno e molti si chiedono, molti giornali, l'Unità per esempio, RAI, poteri a Tarantola, compensi del direttore generale, è polemica. Cioè ci si chiede in questi tempi di crisi, dobbiamo prendere un presidente, un direttore generale, dare 1.100.000 euro in tutto? Anche il Secolo XIX, RAI, il direttore passa, la paga d'oro resta. In questo articolo di Sonia Oranges c'è anche che cosa? Tutti gli elenchi degli stipendi d'oro, per esempio l'ex direttore generale Cappon, che ha diretto l'azienda dal 2002 al 2006, 600.000 euro che hanno continuato a entrargli in tasca anche quando è stato sostituito da Mauro Masi, e certo, contratto a tempo indeterminato. Oppure Augusto Minzolini, salario da 550.000 euro l'anno. Antonio Caprarica, storico corrispondente della Gran Bretagna, che ancora mantiene lo stipendio da direttore, 400.000 euro l'anno. E così Giancarlo Leone, da vice direttore generale, guadagnava 400.000 euro l'anno e che ora dirige Rai Intrattenimento. O un altro vice direttore generale, Gianfranco Comanducci, 400.000 euro. Insomma, quando si è direttori, poi non si perde più la carica, ma soprattutto lo stipendio. Fabrizio Del Noce, che pure vale 400.000 euro l'anno. E così via. Questi gli stipendi li trovate sul Secolo XIX, che però annuncia che la Tarantola pare voglia ridursi lo stipendio. Secondo indiscrezioni, si vuole ridurre l'indennità. Si dice che arriverà a 430.000 euro. Beh, comunque sempre un ottimo stipendio. Mentre è più bufera sui 650.000 euro al direttore generale Gubitosi. Ripeto, c'è il tetto massimo da 294.000 euro fissato nel decreto Salva Italia. E perché era il primo modo per poterlo applicare in maniera concreta? Non è stato fatto. A proposito di stipendi, un altro stipendio che fa scalpore, questa volta in Francia, noi siamo molto contenti, ho lanciato su Twitter, sul mio account @AlinoMilan da tempo l'hashtag via Ibra e ce l'ho fatta, ho vinto, ho trionfato, finalmente è andato via e le polemiche sono in Francia per lo stipendio di Ibrahimovic. Oggi Dario Di Vico in prima pagina del Corriere della Sera, Ibra e la teoria del giusto stipendio, scrive Dario Di Vico. Nell'anno quarto della grande crisi è scontato indignarsi per il super stipendio di Zlatan Ibrahimovic. 16,2 milioni di euro l'anno d'ingaggio. Fanno a pugni con l'etica, perfino col buonsenso. Quindi non resta che consegnare Ibra al fisco transalpino e vedere cosa ne esce fuori. Però, scrive poi Dario Di Vico, siccome considero l'indignazione un sentimento quantomeno parziale, varrà la pena affrontare il caso Ibra PSG da un altro punto di vista. La domanda clou potrebbe essere questa: se il calciatore svedese col suo lavoro creasse valore, ricchezza intorno a sé, questo surplus si spalmasse su un consistente numero di persone, perché dovremmo indignarci davanti al suo super emolumento? Il guaio però è che il mercato dell'intrattenimento calcistico è largamente imperfetto, tale da rendere difficile la risposta contabile al quesito. Un calcolo assolutamente spannometrico ci porta a dire che il PSG, per rientrare dei soldi dati a Zlatan, dovrebbe vendere in un anno 450.000 magliette in più. Ma è chiaro che i vantaggi della squadra parigina non possono essere misurati solo col metro delle magliette vendute. C'è anche la possibilità di vincere la Champions League, ma aggiungo io, tanto con Ibrahimovic non la vinceranno mai. E in ogni caso, insomma, Dario Di Vico si esercita su questo tema Ibra e la teoria del giusto stipendio dopo che quello stipendio da 16,2 milioni di euro l'anno dato dagli sceicchi padroni del Paris Saint-Germain ha suscitato in Francia. A questo proposito, anche sulle dichiarazioni di Ibrahimovic, che appena arrivato in Francia ha detto «è un sogno che si avvera». Questo lo dice sempre quando va nella nuova squadra. C'è davvero un epocale Andrea Scanzi che vi voglio sottolineare sul Fatto Quotidiano, a pagina 18, lessico pallonaro, si parte proprio da questo spunto, no? «È un sogno che si avvera». Zlatan Ibrahimovic l'ha detta centinaia di volte questa frase, con una frequenza ampiamente maggiore dei suoi gol. Al Malmo, all'Ajax, alla Juve, all'Inter, al Barcellona, al Milan, ora al Paris Saint-Germain, lo dirà in Cina, lo dirà ovunque andrà. D'altronde il problema, e questo è il punto di partenza, Andrea Scanzi lo sottolinea dicendo: il problema è che prendiamo troppo sul serio quello che dicono i calciatori. Come diceva Frank Zappa, il giornalismo musicale aveva tre problemi. Era fatto da persone incapaci di scrivere, che dovevano intervistare persone che non sapevano parlare, per poi rivolgersi a un pubblico che non sapeva leggere. E d'altronde cosa pretendiamo da giocatori che pensano con i piedi, nel senso che la loro arte maggiore sta nei piedi, non nel cervello, eppure pendiamo dalle loro labbra. E allora da qui c'è l'incipit per poi ricordare le frasi storiche dei giocatori, alcune davvero epocali. La Jalapas Band ci ha costruito una carriera. Ricordate Luigi Garzia: sono pienamente d'accordo a metà col mister. Oppure Trapattoni: sia chiaro che questo discorso resta circonciso tra noi. O non compriamo uno qualunque per fare del qualunquismo. E ancora: non possiamo fare i coccodrilli e piangere sul latte versato e sulle uova mangiate. Sempre Giovanni Trapattoni, no? Ma poi, c'era il prustiano Altobelli: per la mia carriera devo ringraziare i miei genitori, specialmente mio padre e mia madre. Oppure: è veramente un onore fare qualcosa per i bimbi baciati in fronte dalla sfortuna. E ancora: ancora 5 anni e sarei diventato geometra. Questa fu epocale di Altobelli. Come le esperienze bisogna vissurle. Testuale, Filippo Aureggi ride. Vissurle, Altobelli. C'è anche: ho caduto male e mi sono ingrinato una costola. Sempre Altobelli. Ma anche Franco Causio. Ve lo ricordate? Ti ho fatto un cross che era una pennellata, sembrava un quadro di Pirandello. E ancora, Walter Zenga, ex portierone: speriamo è un aggettivo che non voglio utilizzare. Per chiudere col grande Totò Schillaci: è un gol che dedico in particolare a tutti. Hanno riscosso molto successo queste frasi, ve ne dico altre se volete, dei calciatori che Andrea Scanzi mette sul Fatto Quotidiano. Così iniziate con un sorriso la giornata. Sempre Altobelli era un mito, e quest'Inter è come un carro armato a vele spiegate. Oppure Schillaci: al termine dell'incontro i tifosi mi toccavano, lo avrei fatto anch'io, mi sarei toccato da solo, certo non ho un fisico da bronzo di Rialto. il bronzo di Rialto Schillaci, come l'epocale Malesani che fece una conferenza stampa tutta arrabbiata e poi chiuse: e state calmi tutti, cazzo! Insomma, lui, ovviamente. Vabbè, ma insomma, le trovate sul Fatto Quotidiano queste frasi dei calciatori, insieme a Ibra, è un sogno che si avvera, ha detto appena arrivato al Paris Saint-Germain. Parliamo di cose ben più serie. La Spagna è al collasso, questo sì. Aiuti europei anti-spread, questo è il titolo di apertura che trovate sul Sole 24 Ore a Madrid. Fanno sapere: abbiamo le casse vuote. Cioè, la missione è stata ieri del governo spagnolo, non ci fosse stata l'Unione Europea a salvarci, la BCE a salvare le banche, ci arriveranno i primi 30 miliardi di ricapitalizzazione delle banche questo weekend dall'Eurogruppo, non avremo più i soldi per pagare, non avremo niente nelle casse pubbliche. E allora anche Beda Romano fa sapere a pagina 3, l'Eurogruppo dovrebbe approvare oggi, proprio dopo settimane difficilissime di trattative, il pacchetto di aiuti alle banche spagnole in gravissima difficoltà finanziaria. Un contratto firmato dal governo madrileno che introduce alcuni elementi di flessibilità, prevede che il denaro messo a disposizione dai partner europei possa essere utilizzato anche per altri scopi, previo il benestare di tutti i paesi della zona euro e un nuovo protocollo d'intesa. E resta da capire per che cosa devono essere utilizzati. Ma insomma, se in Spagna certo si piange o se comunque si contesta, ci sono state ancora contestazioni dopo queste ammissioni, non abbiamo davvero più un euro nelle casse e senza l'aiuto europeo saremmo falliti. Tra l'altro, attenzione, perché il ministro delle finanze tedesco Schäuble ha detto e non sarà l'unico dei casi, forse anche altri stati ora ne verranno come contagio. Beh, dicevo, se in Spagna non si ride di certo, anche in Italia, dopo che la Confcommercio ieri ha fatto sapere che abbiamo il record mondiale di tasse da pagare. Oh, uno di quei record di cui uno va fiero tutte le volte quando si sveglia la mattina, dice: oh, finalmente l'Italia ha questo gran bel record. Il 55% del reddito, cioè fino al 55% del reddito. E tra l'altro vi faccio registrare che uno dei commenti più sdegnati su questo è del presidente dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. Ma si è detto tante volte, il presidente dell'Agenzia delle Entrate non è colui che fissa le tasse, è l'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate è l'agenzia che riscuote le tasse. Le tasse vengono fissate per legge dal Parlamento. La pressione fiscale, ha detto Befera, è elevatissima, è un problema. I tantissimi che pagano, una maggioranza silenziosa, sopporta una pressione del 55%, anche superiore. Alcuni imprenditori mi dicono il 70%, e lo sopporta facendo sacrifici per il senso del dovere. E Befera ha aggiunto: il problema principale è un deficit culturale dell'Italia che porta ancora molti italiani a strizzare l'occhio alla furbizia di chi non paga. 55% delle tasse, tra l'altro. Paolo Baroni sulla Stampa, pagina 3, raccoglie un po' il paese delle gabelle. L'ultima arrivata è quella sui terremotati, vale a dire l'accisa, ma lo stupidario fiscale, racconta Baroni, ha raccolto un po' tutto negli anni. Pagavamo la tassa sui balconi da 3 a 20 mila lire a ogni metro quadro che insisteva su spazi aeree pubbliche di qualsiasi natura, abolita poi nel 95. Pagavamo la tassa sui tubi, sui dadi da brodo. I dadi da brodo. Pagavamo questa tassa. Ma nello stupidario non manca la tassa sulle banane, considerata bene di lusso nel 1965, abolita poi nel 91. La tassa sullo zucchero del 1924, cassata dopo la pressione dell'Unione Europea. Quella del caffè, che risaliva al 1917. Abbiamo tassato la cicoria, l'olio di semi, la margarina, i carretti, i velocipedi. E poi, visto che si tassa l'ombra dei balconi, per par condicio venivano tassati pure i gradini di casa che insistono sulla via pubblica. Questo è il passato, ma non è che ora si stia molto molto meglio, tutt'altro. E intanto ieri il Sole 24 Ore faceva sapere che le semplificazioni sull'edilizia erano allo studio, ieri anticipava il Sole 24 Ore. E con Carmine Fotini e Marco Rogare invece a pagina 9 c'è stato in qualche modo o un dietrofronto o tutto rimane in bilico. Fino a notte c'è stato un confronto sul decreto legge sviluppo, con il freno soprattutto messo a livello parlamentare dal Partito Democratico. Vedremo, oggi c'è il Consiglio dei Ministri, vedremo anche se ci sarà concretezza in quell'idea di accorpare le feste patronali e risparmiare l'1% del PIL lavorando di più. Insomma, qualcosa si saprà di più oggi, visto che c'è appunto la riunione del governo. Intanto la politica, ancora molti giornali titolano, anche se all'indomani dalla strage di Via D'Amelio, dove, lo dico tra parentesi, visto che ancora miete molto successo, ricordate quando invitammo l'autista di Giovanni Falcone, unico sopravvissuto a Capaci, indovinate, anche ieri l'avete sentita anche nel giornale radio, i minuti di silenzio giustissimi, sacrosanti, per le vittime di Via D'Amelio, coloro che sono morti a Via D'Amelio. Antonio Vullo, che è sopravvissuto invece a Via D'Amelio, ha avuto questa grandissima sfiga, evidentemente non è stato neanche mai citato, era un agente della scorta di Paolo Borsellino, neanche citato, solo perché è tuttora vivo e vegeto e ieri era in Via D'Amelio. Una cosa veramente ipocrita e vergognosa. Detto questo però, chiusa parentesi, quello che prende notizia sui giornali, quello che prende le prime pagine è l'intervento del capo dello Stato Giorgio Napolitano, dopo tra l'altro tutte le polemiche, sapete, sulla trattativa. Il Corriere della Sera pubblica a pagina 2... che cosa? L'integrale intervento di Giorgio Napolitano, che ha detto sia fatta totale giustizia e sia fatta totale verità e si deve giungere alla definizione di un'autentica verità su quell'orribile crimine che costò la vita a un grande magistrato protagonista con Falcone, di svolte decisive per la lotta contro la mafia. Ma al di là delle dichiarazioni, delle manifestazioni, delle celebrazioni, dei ricordi legittimi, vi sottolineo e segnalo su questo un'intervista, non è certo l'unica, ogni giorno ne fa qualcuna, al procuratore di Palermo Antonio Ingroia, che però alla stampa, a Guido Ruotolo, annuncia qualcosa di nuovo dopo aver detto: io non mi sento in guerra con nessuno, però sono diventato un bersaglio, questo lo avverto anch'io, non mi appartiene la logica della guerra, in questi anni ho cercato di muovermi sempre seguendo gli insegnamenti di Paolo Borsellino, quindi cercare la coesione istituzionale, la collaborazione tra le istituzioni, la ricerca della verità. Ma poi ecco, il vero botto è alla fine dell'intervista, annuncia Antonio Ingroia che sta seriamente pensando di andare un anno in Nicaragua. Le Nazioni Unite mi hanno proposto un incarico annuale di capo dell'unità di investigazione e analisi criminale contro l'impunità in Guatemala, una proposta che considero una sorta di prosecuzione della mia attività in Italia, perché in quelle latitudini, per fortuna, i giudici antimafia italiani sono apprezzati anziché denigrati e ostacolati. E alla domanda: ma sembrava che lei volesse rinunciare all'offerta dell'ONU, ma sa, risponde a Guido Ruotolo Ingroia, i fatti accaduti negli ultimi giorni, la delicatezza del momento, mi stanno facendo riflettere sui tempi entro i quali accettare la proposta. Intanto ho deciso di rinunciare alle mie ferie. Dunque, sono diventato un bersaglio, andrò un anno in Guatemala, così almeno l'annuncio del PM Antonio Ingroia lo trovate sulla stampa. La politica ancora fa registrare stracci che volano all'interno della Lega, con Maroni che in questa intervista su 7 dice: il capo sono io, nel senso che così ha scelto il consiglio del partito, e se il congresso ha detto una cosa poi la si fa. E Bossi che invece ieri ha replicato: Il capo sono io. Insomma, Bossi, il duello finale con Maroni, il rischio di scissione c'è. Questo è il titolo, per esempio, a pagina 13 del Corriere della Sera, l'ipotesi che Bossi si faccia un nuovo partito o si tenga la Lega, insomma, vedetela come volete, ma comunque che si arrivi a una scissione nella Lega storica, quella unita e creata da Umberto Bossi, oggi guidata da Roberto Maroni. Mentre c'è il giallo allora sulla questione Berlusconi, come scriveva Stefano Folli subito dopo l'annuncio della candidatura. Tra l'altro cito Stefano Folli perché oggi ricordo che il Sole 24 Ore esce con Il Punto di Stefano Folli, cioè un libricino allegato appunto al Sole 24 Ore in cui si raccolgono tutti gli editoriali e i commenti di Folli. Ebbene, come diceva lui stesso, non è poi così sicuro che Berlusconi si ricandidi. Dopo l'annuncio, scendo in campo, riscendo in campo. In realtà oggi i giornali cominciano a fare un po' di retromarcia. Berlusconi in campo dopo la sentenza Ruby, così titola il Corriere a pagina 13, anche il quotidiano Libero a pagina 12, per candidarmi aspetto la sentenza del processo Ruby. Racconta per esempio Tommaso Labate sul Corriere. Secondo te io sto facendo bene? Questo chiede un po' Silvio Berlusconi a tutti coloro che incontra, da Vittorio Feltri, Giuliano Ferrara, l'ha chiesto anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, sempre la stessa domanda: secondo te sto facendo bene? Perché, aggiunge il Cavaliere, a chiunque si trovi ad affrontare con lui il tema del ritorno, questa notizia non doveva uscire. E il punto è quello, cercare di tenere nascosta la notizia che in realtà è uscita, e poi le riserve vere verranno sciolte a ottobre dopo la sentenza Ruby, perché qualcuno attribuisce a Berlusconi questa frase: voglio lasciarmi il fango alle spalle. Certo, però continuano invece le indiscrezioni sulle nuove inchieste. L'ultima appunto è quella che vede coinvolta a Palermo Dell'Utri, accusato di estorsione proprio ai danni di Berlusconi. Repubblica, tutti i giornali fanno sapere che i soldi di Berlusconi dati a Dell'Utri, una parte di questi soldi, almeno 11 milioni, sono stati scoperti su un conto cifrato a Santo Domingo. Questo è il titolo per esempio di Repubblica pagina 9: Dell'Utri, i soldi di Berlusconi a Santo Domingo sono stati inviati 24 ore prima della sentenza definitiva della Cassazione, quella che ha annullato la condanna definitiva e ha disposto un nuovo processo in appello per Dell'Utri, l'accusa è concorso esterno alla mafia. Ricordate che c'era un giallo proprio a ridosso di quella sentenza, di un telefonino di Dell'Utri spento e nel quale c'era una segreteria sempre in spagnolo, tanto che qualcuno disse: ma è all'estero sicuramente. E ora Repubblica, con Salvo Palazzolo, fa sapere che riprende quota l'idea che Dell'Utri fosse a Santo Domingo poco prima della sentenza, e scrive Repubblica: pronto probabilmente a trascorrere una latitanza dorata in caso di condanna coi soldi appunto di Silvio Berlusconi, 11 milioni trovati sul conto di Dell'Utri stesso. E a proposito di soldi, invece, contrattacca Roberto Formigoni, il governatore della Lombardia, dice: querelo sia Repubblica sia il Fatto Quotidiano. Ieri il Fatto Quotidiano ha pubblicato questo rapporto segretato della polizia giudiziaria. Oggi il Fatto ci ritorna su questa vicenda, pagina 6, il titolo è Il triangolo celeste. Ancora stralci di questo rapporto della polizia giudiziaria, secondo la quale il Fatto dice 9 milioni di euro di Daccò, Pierangelo Daccò, sono finiti su conti o comunque a disposizione di Roberto Formigoni. Su questo c'è l'annuncio di querela di Formigoni, che dice il Fatto e Repubblica hanno truccato le carte, tentato un golpe. E insomma, si continua su questi toni. Mentre è ufficiale, torna Tremonti, cari ascoltatori. È il Corriere della Sera, ancora con Alessandro Trocino, lo trovate a pagina 10. Ha detto: ho passato il Rubicone, le piante crescono dal basso, le Marche sono una buona terra e oggi ho passato il Rubicone. Sapete che Giulio Tremonti, che ha sempre parlato per queste metafore molto alte, eccetera, insomma, pare ormai aver sciolto il dubbio, torna e scende in campo nuovamente. Ha affidato tutto, tra l'altro, a un ex uomo, quello che organizzò i pullman di Prodi. Si tratta di Gianni Pecci, che oggi viene intervistato dal Quotidiano Nazionale. Sì, Tremonti mi ha chiamato. Ecco come scenderà in campo. Io gli ho spiegato che doveva venire via dall'Aspen Institute, dai salotti buoni dell'economia, scendere tra la gente comune, andare in periferia come facemmo col pullman di Prodi. Insomma, è significativo. Gianni Pecci, ex direttore di Nomisma, l'uomo che seguì Prodi nella campagna elettorale, sarà lo spin doctor, per utilizzare questo termine molto americano, della nuova avventura politica di Giulio Tremonti. Anche lui non lascia dunque la politica. Noi parleremo della vicenda Rossella Urru, liberata, e c'è anche un riscatto pagato con le annesse polemiche. Voglio però chiudere con una notizia, lo so, è brutta, è triste, inquietante, ma la pubblica solo il Corriere della Sera. Sapete che è stato sequestrato il canile Green Hill, quello dove c'è la sperimentazione con l'uso dei beagle? La notizia oggi che appare solo sul Corriere è davvero forte. Il canile dell'orrore nel congelatore di Green Hill, i corpi di 100 beagle. I cani. Orrore a Green Hill, scrive Vilma Petenzi. Nei 5 hangar dell'allevamento di beagle destinati alla vivisezione sequestrato dalla procura di Brescia sono state trovate carcasse di animali congelati. Quando hanno aperto la cella frigorifera, veterinari e agenti sono sbiancati in volto. Impilati fianco a fianco c'erano decine di animali morti. Veterinari hanno fatto il conteggio dei cadaveri, hanno tolto i corpi dai frigoriferi, hanno cominciato a contare poco meno di 100 il totale. Ovviamente questa scoperta della forestale a Green Hill, scrive il Corriere, ora aggrava la posizione dell'azienda che gestiva questo centro.